voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Mutti, solo pomodoro, per passione e filosofia, di Anna Marino. Senz'altro non sono un grande consumatore. Io molto spesso passo attraverso il prodotto già trasformato. Ci passo per innumerevoli motivi, non solamente di tipo così sentimentale, ma perché in cucina in modo particolare credo che il pomodoro trasformato sia senz'altro un ausilio molto più efficiente ed efficace. Francesco Mutti, amministratore delegato del gruppo Mutti, leader di mercato nei segmenti del concentrato e della polpa, racconta così la sua dimensione di consumatore di questo frutto, di cui conosce bene gli effetti benefici. Sono diversi anni che si stanno portando avanti degli studi, in particolare sul licopene, anche se il licopene non è l'unica sostanza. Il licopene è un beta-carotenoide, ovvero è un antiossidante naturale. È quello che dà la colorazione rossa al pomodoro. Si sviluppa quindi nella fase finale della maturazione della bacca stessa e diventa ancora più facilmente biodisponibile nel momento in cui questo è cucinato e concentrato. Gli antiossidanti sono ovviamente proteggono dall'invecchiamento cellulare. Se noi andiamo a prendere molto spesso il pomodoro al netto di quelli che sono i 2-3 mesi in cui naturalmente matura all'aria aperta, senz'altro la coltivazione in serra rende quantitative di licopene decisamente più bassi, quindi si tende, o almeno io tendo a privilegiare senz'altro quello che è il prodotto trasformato. A questo punto diventa abbastanza difficile identificarne la quantità, perché da prodotto a prodotto cambia in modo sostanziale. Lei calcoli che per un chilo di nostra passata occorrono circa 2,5 kg di pomodoro fresco. Se andiamo su un doppio o triplo concentrato, con il triplo concentrato raggiungiamo 7,5 kg di materia prima per ogni chilo di triplo concentrato, tant'è che proprio negli studi effettuati sul licopene, che tra l'altro in modo particolare viene utilizzato contro il tumore alla prostata, viene utilizzato effettivamente il triplo concentrato, in quanto si è notato che diete particolarmente ricche di beta carotenoidi, licopene in modo particolare, riducono drammaticamente quella che è la percentuale di popolazione colpita da questa malattia. Sulle tavole degli italiani da oltre 100 anni, una tradizione di sapore ed innovazione che si rinnova dal 1899, è Mutti, l'azienda parmense situata nel cuore della Food Valley, che ha fatto del pomodoro di qualità la propria missione. Una zona che ha una lunga e sorprendente tradizione nel settore. L'occuparsi di pomodoro è una tra le coltivazioni e poi le industrializzazioni più importanti che si sono sviluppate a Parma tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento. Quindi è una coltivazione molto molto diffusa, così come la sua trasformazione. Consideri che a Parma, appunto a inizio Novecento, dove proprio in questi giorni tra l'altro a brevissimo verrà aperto il museo, uno dei musei del cibo legato al mondo del pomodoro, consideri che c'erano centinaia di aziende di trasformazione. Ricordiamo che a quel tempo il trasporto della materia prima poteva avvenire esclusivamente tramite carri trainati da buoi piuttosto che da cavalli, quindi il sito produttivo di trasformazione doveva essere molto vicino ai punti di produzione di raccolta. Oggi naturalmente la cosa è significativamente diversa, ma ancora se risaliamo agli anni 70 c'erano a Parma più di 50 aziende di trasformazione di questa splendida bacca, quindi è senz'altro nel DNA della nostra provincia e le caratteristiche pedoclimatiche del terreno danno senz'altro un prodotto qualitativamente superiore a quello che può essere la media di altre parti della pianura padana e senz'altro una tra le vette in termini assoluti a livello nazionale. La storia di Mutti è legata a quella personale e imprenditoriale di Giovanni Mutti, capostipite della famiglia. Giovanni intuisce, con 15 anni di anticipo sulla moderna agronomia, il principio dell'alternanza delle coltivazioni, una prassi applicata ancora oggi. Suo nipote Marcellino, fondatore dell'azienda Mutti, con l'aiuto dei figli indirizza i suoi sforzi allo sviluppo della nascente industria del pomodoro. Dapprima con criteri estremamente artigianali, poi via via sempre più strutturati, secondo una logica imprenditoriale. Il legame tra la nostra famiglia e quello che è il pomodoro, senz'altro un legame molto antico, ormai sono più di 100 anni che ce ne occupiamo, questo, ma proprio c'è un'identità tra località e prodotto. Allora il prodotto conservato aveva caratteristiche profondamente diverse rispetto a quelle attuali, evidentemente. Diciamo che è stata una progressione, veniva coltivato il pomodoro, poi piano piano veniva conservato in pani neri, praticamente si otteneva un prodotto ad altissima concentrazione in modo tale che fosse stabile indipendentemente dal fatto che fosse poi pastorizzato, quindi un'autoconservazione del prodotto stesso. Già agli inizi del Novecento, nel 1911 ad esempio, la Mutti vince il premio Medaglia d'Oro all'Esposizione Mondiale di Roma. Lì già abbiamo un salto tecnologico molto importante con l'introduzione su scala industriale della cosiddetta Bull. La Bull è un grande pentolone che però opera sotto vuoto. Questo permette una perfetta conservazione del prodotto stesso, però nel contempo anche un'evaporazione della parte acquea. I ricordi di famiglia visti attraverso gli occhi di un giovane Francesco Mutti che si accosta alla produzione danno un ritratto dell'azienda parmense che ha rivoluzionato l'industria conserviera. Mio padre innanzitutto che non è un centenario e ultra, nel senso che è una persona ancora attiva in azienda, quindi senz'altro noi stiamo parlando della fondazione dell'azienda che passa tramite il mio bisnonno e i suoi figli. Io posso parlare dei miei primi ricordi dell'azienda che sono assolutamente in tenerissima età, dalla raccolta della materia prima, allora chi trasformava pomodoro aveva classicamente anche una produzione di materia prima e questa fin verso la fine degli anni 80, inizio anni 90, veniva effettuata a mano, per cui si entrava effettivamente nei campi e si raccoglievano le bacche mature. Oggi è cambiato in modo importante in quanto tutta la raccolta avviene meccanicamente. Ma senz'altro, se devo ricordare uno tra le primissime immagini che io ho in tenerissima età del mondo della produzione, della trasformazione, ecco, partiamo dalla raccolta. Poi, senz'altro, questo periodo agostano in cui l'atmosfera in casa, la trasformazione avviene dagli ultimissimi giorni di luglio fino alla seconda metà di settembre, ma agosto è classicamente il mese clou, e senz'altro il mese d'agosto era un mese in cui non ci si allontanava mai da casa, era un mese di grande fermento, allora senz'altro la possibilità di intervenire, parliamo di 30-35 anni or sono, di intervenire maggiormente sui processi di trasformazione esisteva, era senz'altro un momento di grande gioia quando si andava con il papà di notte, la sera, dopo cena, a vedere cosa stava succedendo in fabbrica, se andava tutto bene e quelli che potevano essere i problemi che stavano emergendo, per cui ci si ritrovava e si discuteva, e questo per un bambino nella notte e quant'altro è un momento assolutamente importante nei miei ricordi. La forte crescita della realtà Mutti si riflette presto sull'evoluzione dell'assetto aziendale, che da originaria azienda familiare si trasforma prima in società di fatto, fino al 1963, quindi in società in nome collettivo e infine, nel 1979, in società per azioni. Ecco come Francesco Mutti vede il passaggio generazionale attraverso questi diversi cambiamenti. La ricetta purtroppo secondo me non c'è. Diciamo che possono esistere delle accortezze e delle accortezze importanti. Il mio passaggio generazionale è dato senz'altro da una grande disponibilità di mio padre nel farsi tra virgolette da parte e nel controllare come in un qualche modo io stessi portando avanti già da una dozzina di anni or sono lo sviluppo dell'azienda, quindi una disponibilità, questo è senz'altro una tra le grandi accortezze. Però veramente mi sembra che ogni singola realtà debba trovare alcune ricette proprie per questo passaggio che comunque non è mai semplice ed è un momento estremamente delicato nella vita dell'azienda. Questa invece è la filosofia sottesa dal bilanciamento tra vita e lavoro per Francesco Mutti, che ha come punto fermo la cultura. Non so se da questo punto di vista posso essere un buon maestro, tenderei a dire più no che sì, in quanto credo che il lavoro occupi una fetta estremamente rilevante della mia vita. io ho una fortuna di avere un lavoro che adoro veramente, che mi permette di avere, al di là della semplicità di quello che può essere la trasformazione della materia prima, che è un processo relativamente semplice, bene, al netto di questa semplicità il lavoro, credo, di sviluppo di un'azienda è un lavoro che assorbe in modo estremamente importante e che dà comunque un'enormità di possibilità intellettuali, di incontro, di viaggio, di scambio di opinioni e anche proprio di crescita personale, sia caratteriale che intellettuale e psicologica. Credo che il lasciare spazi ad altre attività che vanno a toccare altre parti dei nostri emisferi cerebrali sia comunque un arricchimento estremamente importante. Il perderlo rappresenta veramente una significativa perdita. Fatturato costantemente in crescita, qualità e innovazione continua. Nel 1951 Mutti viene proiettata ai vertici dell'industria conserviera grazie al lancio del concentrato di pomodoro in tubetto di alluminio. Superata la diffidenza iniziale per un formato fino ad ora riservato solo al dentifricio, il nuovo pack acquista sempre maggiore popolarità tra i consumatori, grazie alla straordinaria praticità e facilità di conservazione rispetto alla tradizionale latta. Ancora oggi Mutti è leader indiscusso di questo mercato. Nel 1971, con l'introduzione sul mercato della polpa di pomodoro in finissimi pezzi, risultato di un processo produttivo esclusivo dell'azienda, Mutti consolida il suo successo. Francesco Mutti spiega come l'azienda affronta oggi la crisi economica. In questo parlare di crisi, fortunatamente per la nostra azienda, risulta quest'anno abbastanza, non necessariamente una parola di casa. Noi anche quest'anno stiamo crescendo di circa un 20%. In termini di fatturato rispetto all'anno scorso, quindi accetterei ben volentieri di mantenere una crisi di questo genere. Stringere i denti credo debba essere uno di quei verbi che vanno mantenuti sempre, però credo sia e debba essere uno tra i tratti salienti dell'attività imprenditoriale, dell'attività aziendale in genere. La qualità è anche la chiave di lettura nella scelta dei partner. Dal 2005 Mutti sponsorizza Alma, il più autorevole centro di formazione della cucina italiana a livello internazionale. Ha inoltre avviato un rapporto di collaborazione con l'Università di Scienze Gastronomiche, con lo scopo di creare un centro internazionale di formazione e di ricerca al servizio di chi opera per un'agricoltura rinnovata, per il mantenimento della biodiversità e per un rapporto organico tra gastronomia e scienze agrarie. L'Università di Scienze Gastronomiche ci ha scelto ormai alcuni anni or sono come base per lo studio del pomodoro, quindi per la comprensione. Loro hanno una formazione abbastanza itinerante anche, che coinvolge tantissimi prodotti dell'alimentazione, in modo particolare della dieta mediterranea. Per quanto riguarda il pomodoro siamo stati scelti noi mettiamo nelle due giornate che classicamente gli studenti passano presso di noi, mettiamo a disposizione quello che è il nostro know-how. Il pomodoro è un prodotto italiano che connota in modo fondamentale la cucina italiana e dall'Italia parte per tante destinazioni nel mondo, però in questi anni sono stati persi molti treni per l'identificazione di quella che è una corretta caratteristica e cucina italiana. Ai controlli sull'intera filiera, a partire dal 2001 si è aggiunta la dichiarazione non OGM, una certificazione che richiede due diversi tipi di controllo. Il primo di tipo ispettivo, direttamente sulle operazioni effettuate dalle parti agricole. Il secondo di tipo analitico, con analisi effettuate da laboratori esterni su piantine, pomodoro fresco e prodotto finito. Assolutamente noi siamo non OGM, per quanto poi non andiamo ad apporre scritte di alcun genere sulle nostre confezioni perché ci sembra ridondante. Da questo punto di vista tutto quello che è italiano non può essere geneticamente modificato. Tradizione gastronomica tutta italiana, l'impiego in cucina del pomodoro, non solo nel ricettario, ma anche nella canzone, come Viva la pappa con il pomodoro, cantata negli anni 60 da Rita Pavone, che naturalmente è stata adottata da Mutti. La vivo come la canzone che sento tutte le volte che chiamo l'azienda, e la nostra centralinista non è particolarmente rapida nel prendere la chiamata, perché il messaggio di supporto, che di attesa dell'eventuale persona che chiama l'azienda, è proprio viva la pappa col pomodoro. Senz'altro è una canzone che evoca in me, perché proprio Gian Burrasca è un personaggio della mia infanzia, lo ricordo intorno ai 4-5 anni, quindi proprio quando il vedere un personaggio come questo ti entra molto nel cuore. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili al sito internet www.radio24.it. Buona serata e a domenica prossima.